Linee d'ombra di Matteo Caccia. E non sono molto fiera e orgogliosa del mio comportamento, però è stato un passaggio, insomma, siamo passate di lì e siamo arrivate comunque a qualcosa di bello. Facevo di tutto per farla sentire inferiore a me e lei mi sopportava. Non si è mai vendicata, non mi ha mai mandata a quel paese. Storia di un rapporto fra sorelle e di un insolito campione di wrestling in una puntata che si intitola Una nuova idea di te. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò. Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo. No, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Sì, beh, e lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei. Io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Una probabilmente delle battute più famose della storia recente del cinema, lo dice lei, Jessica Rabbit, in quell'esperimento che è nato a super buon fine di un film in cui si mescolano gli attori in carne ed ossa con dei disegni. È diventata un'icona di sensualità, nonostante fosse assolutamente solo ed esclusivamente un disegno. Jessica Rabbit, non sono cattiva, mi disegnano così. La puntata di oggi si intitola Una nuova idea di te, che però potrebbe appunto anche essere in realtà una nuova idea di me, perché le storie che vi racconteremo sono storie che hanno sì un confine, come sempre, e quel confine è quasi speculare, cioè racconti questa storia, ti guardi indietro, ti giri e vedi che sei una persona diversa da quella che magari ti sei raccontato nell'arco della tua vita, o che magari semplicemente ti hanno raccontato. C'è un pezzo molto molto interessante di questo libro che si chiama L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, di Oliver Sacks. Oliver Sacks era un neurologo che studiava neurologia, ovviamente, quindi studiava la mente umana, e spesso e volentieri prendeva appunti. Ha scritto questo libro, che altro non è che una sorta di report di tutti quanti i suoi pazienti, e in uno in particolar modo, una persona che ha problemi di memoria, lui dice chiaramente: noi siamo la biografia che ci raccontiamo, cioè noi siamo le storie che ci raccontiamo, al punto che se ci dimentichiamo tutto, cioè se perdiamo la memoria, la nostra identità svanisce, perché noi siamo le nostre esperienze precedenti, ma siamo soprattutto il modo in cui noi stessi diciamo di essere. Guardate, questa cosa è una cosa che vale davvero per non solo per le storie parlate, cioè per quando uno si racconta un primo appuntamento con un uomo o una donna con cui è uscito, ma vale per un sacco di atteggiamenti che hanno a fare con la narrazione di sé, no? Per cui se uno si mette un cappello rosso, beh, diventa uno che va in giro con un cappello rosso, ad esempio. Io non ho mai messo un cappello rosso, ci sarà un motivo, e probabilmente è tanto più uno col cappello rosso quanto più tanto più volte quel cappello rosso se lo mette, no? Sapete, le persone che vanno in giro e sono vestite in modo molto bizzarro, molto particolare, non lo hanno fatto per caso, ovviamente, lo hanno fatto con un motivo, perché diventano delle persone e sono delle persone vestite in modo bizzarro. Ha proprio a che fare con l'idea che abbiamo di noi stessi e con l'idea che vogliamo probabilmente comunicare di noi stessi. Ma noi raccontiamo storie, non facciamo altro, facciamo intrattenimento attraverso le storie, quindi ve le raccontiamo. E quindi partiamo dalla prima, che è la storia di una ragazza che ha una pessima idea di sé in quanto sorella, perché per un sacco di anni da ragazzina è stata terribile con sua sorella, è stata proprio una persona cattiva, una brutta persona con sua sorella, e poi alla fine diciamo riesce a mutare e riesce quindi ad avere una nuova idea anche di se stessa, sicuramente di sua sorella, ma soprattutto di se stessa. E la storia dopo invece è la storia di un uomo che ha recitato la parte del cattivo per tutta la vita, perché era un ruolo che gli faceva comodo, perché era un ruolo che gli permetteva di lavorare, era un lottatore, e quindi interpretare quella parte lo rendeva probabilmente un professionista che faceva più soldi, ma in realtà era tutt'altro quell'idea. E quell'uomo di cui vi raccontiamo la storia ha ispirato anche un cartone animato di grandissimo successo. Ma andiamo con ordine e cominciamo con la prima storia. Benvenuti a Linea d'Ombra. Ero talmente accecata dalla gelosia che rischiavo di non vedere la fortuna che mi era capitata ad avere una sorella così speciale. Sono la maggiore di tre figli che non ha accettato di buon grado la compagnia dei nuovi arrivati, gemelli per giunta, un maschio e una femmina. Quest'ultima in particolare ha da subito rappresentato una minaccia per me. Unica dei tre figli con gli occhi azzurri del papà, un dolce bambolottino nato di solo 1,6 kg. Da proteggere, da accudire più degli altri, che invece erano forti e robusti fratelli. Le ho dichiarato guerra in men che non si dica. Questo è, ahimè, il primo ricordo che ho di lei. Seguono ricordi di dispetti fatti e bronci messi su ad ogni festa, perché pensavo che i suoi regali fossero più belli dei miei. La cattiva per tutta la famiglia ero io, che non apprezzavo la fortuna di avere una sorellina con cui giocare. Lei mi cercava e mi adorava. Io o la respingevo o la maltrattavo. Ricordo i quaderni sottratti dal suo zaino la sera tardi. Sarebbe andata a scuola il giorno dopo senza compiti, prendendo un brutto voto o una nota. Sì, la più brava sarei rimasta io. Sì, abbiamo 2 anni di differenza, quindi io non ricordo tantissimo proprio dei primi istanti, però mi hanno sempre raccontato che da subito la culla in cui dormiva mia sorella e anche quella in cui dormiva mio fratello venivano guardate con un certo astio, insomma, mi dicevano che le tiravo delle occhiatacce a quelle culle quando passavo. E poi, diciamo, quello che ho visto invece dalle fotografie è un po' un cambiamento della mia espressione, nel senso che nelle foto fino ai 2 anni ero proprio sempre molto sorridente, dopo nelle foto in cui compaiono anche loro si nota un certo broncio. Ricordo le storie che le raccontavo, una in particolare, Cassonetta, la bambola perfetta. La trama era semplicissima. Una bella bimba, che era la mia descrizione ovviamente, si annoiava e i genitori le provavano tutte per divertirla. Purtroppo nessun gioco la soddisfaceva per più di qualche minuto, finché la mamma, tornata a casa dopo aver buttato il rusco, non le porta una bambola trovata nel cassonetto. Piccolina, con gli occhi azzurri, la descrizione di mia sorella ovviamente. Si muoveva come una bambina vera e divenne il gioco preferito della bella bimba, che la chiamò Cassonetta. Mia sorella piangeva ogni volta che sentiva quella storia e correva dai miei per chiedere se fosse vera. Ricordo poi i campi scout, anche lì l'avevo fra i piedi, sempre. Non volevo che mi rubasse pure le attenzioni delle mie amiche coccinelle. La ignoravo, e se lei, più piccola e più spesso presa dalla malinconia di casa, veniva a cercarmi, la cacciavo via immediatamente. Le cose non sono certo migliorate durante l'adolescenza. Facevo di tutto per farla sentire inferiore a me. Volevo essere io quella popolare, la sorella più inserita. Le cattiverie fatte sono state innumerevoli. E lei? E lei mi sopportava. Non si è mai vendicata, non mi ha mai mandata a quel paese, addirittura mi aiutava nelle difficoltà. Ricordo una sera d'estate al mare in cui avevamo bevuto molto con gli amici della compagnia e io non stavo affatto bene. Lei mi aiutò a rientrare in casa, rimase in terrazza con me a farmi prendere aria e mi avvolse con una coperta fin tanto che non stetti meglio e poi mi mise a letto. Nonostante tutto, io non la reggevo e facevo di tutto per litigare. Tutto il liceo è andata proprio malissimo e anche all'inizio dell'università, insomma, è sempre stato un rapporto abbastanza conflittuale, poi c'erano magari dei momenti di vicinanza, però non durava. E le cose appunto sono cambiate quando ci siamo allontanate per 9 mesi in cui lei era in Erasmus, allora lì sì che poi dopo le cose quando è tornata sono cambiate, però cioè io proprio tutti i ricordi che ho sono sempre litigi alternati a pacificazioni molto brevi, però sempre conflittuale il rapporto. Le cose sono finalmente cambiate verso la fine dell'università, quando lei si è trasferita ad Edimburgo per quasi un anno. Litigammo il giorno stesso della partenza, non ricordo nemmeno per cosa. Dopo poche settimane però, invece del senso di liberazione che mi aspettavo di provare, cominciai a sentire la sua mancanza. Presi a scriverle delle mail in cui le raccontavo semplicemente quello che facevo. Lei rispondeva sempre e mi raccontava della sua vita ad Edimburgo. Iniziammo così a comunicare senza litigare. Le nostre mail erano diventate un appuntamento fisso, uno dei momenti migliori della giornata. Una volta tornata a casa, il nostro nuovo rapporto fra sorelle, vissuto solo virtualmente fino ad allora, è proseguito anche nel mondo reale. Abbiamo iniziato a uscire assieme, a confidarci, a fare vacanze insieme. E ora considero mia sorella la mia migliore amica, la più grande fortuna che mi sia mai capitata. Come faccio a non morire dal senso di colpa per come l'ho trattata durante tutti quei lunghi anni? Anni in cui era piccola in formazione, anni in cui poteva essere facilmente traumatizzata. La risposta è che ogni volta che la vedo o la sento, mi accorgo della magnifica persona che è, della forza e dell'equilibrio che ha. Non penso di averla scalfita, forse l'ho resa più forte e pronta ad affrontare gli schiaffi che la vita inevitabilmente ti dà. Forse è presuntuoso pensare di avere questo merito e probabilmente non ce l'ho. L'unica cosa che posso affermare con certezza è di essere immensamente grata di non averla persa. Sit beside you in school while we paint and make you laugh. Mine was never very good. Yours looked exactly like the photograph. Looks like I'm growing up beside you. Yeah. I don't always get the way you feel, but now I've learned to live with that. It's like I'm a part of something real. I was hitting a bottle, now I broke the seal. Looks like I'm growing up inside. And the sun sets the scene while the rain misses me. And all the time I'll be growing, growing up inside each year. Oh, the sun sets the scene while the rain misses. I'm growing up inside. Quando noi decidiamo i titoli delle puntate, devo dire che è una delle operazioni che ci diverte di più. Lo facciamo per lo più nelle riunioni, quelle ridotte, editoriali, che non coinvolgono Paolo Corleoni o Luca Micheli. Siamo io, Anita Panizza e Mauro Pescio. E quando abbiamo dovuto dare il titolo a questa puntata, ci siamo detti... Troviamo qualcosa che abbia un senso, come dire, che giri intorno a questa storia e che le dia anche una luce strana. E ci è venuto in mente questo titolo, Una nuova idea di te, perché la storia che ci racconta Giulia è una storia che è come se la mettesse di fronte a uno specchio, e lo specchio è sua sorella, che in qualche modo nel tempo, con gli anni e con questo nuovo dialogo che ci racconta nella storia, le regala una nuova idea di sé. Chiediamolo se le sembra opportuno. Pronto, ciao Giulia, buongiorno, benvenuta. Sì, pronto, ciao a tutti, ciao Matteo. È così? Guarda, vi ringrazio per questa illuminazione, perché avete letto fra le righe, avete trovato qualcosa che mi fa pensare, sì, mi piace molto. Bene, senti, la prima cosa che mi viene da chiederti è come sta tua sorella? Ah no, sta bene, siamo in contatto a distanza, ahimè, perché vista la situazione, certo. Abitiamo ai capi opposti della città, quindi neanche fra balconi ci possiamo salutare, e mi manca molto. Dove abitate? A Bologna, però siamo proprio nei punti opposti della città. Cioè, lei adesso è il fratello e lei sta alla Fiera, tipo per dire. No, non proprio, io sto in Mazzini e lei in Andrea Costa, quindi ancora più posti, lontano. Conosco due posti a Bologna, insomma la frequento abbastanza, però conosco due posti, me li sono giocati, ho detto magari uno ce l'ho in fila, invece niente, però tant'è, no, insomma, vivete lontane, quindi non vi sentite come tutti noi su Zoom, Skype, bla bla bla, e telefonate varie. Eh sì, infatti. Tra l'altro Giulia, io so, perché me l'ha detto Anita ovviamente mi fornisce i dettagli della vita privata di ciascuno, so che tu hai un figlio che ha 5 mesi di età, giusto? Quindi è quasi esatto, un miracolo esatto, che in questo momento riusciamo a parlare serenamente, giusto? Sì, infatti è veramente gentilissimo, ci lascia questo momento, lo ringrazio molto. E perché insomma, mi dicevi poco fa, che ha fatto il vaccino stamattina. Esatto, quindi era abbastanza tramortito, un po' rintontito, e il pisolino l'ha fatto velocemente, e di solito cade bello addormentato in questi casi, quindi possiamo approfittare per chiacchierare. Io vorrei tornare proprio a un pezzo del tuo racconto che mi ha tramortito. Cassonetta, la bambola perfetta. Questo, se mi permette, adesso non voglio fare lo psicologo dell'infanzia, ma c'è un momento nella vita di tutti i fratelli, è capitato anche a me con mia sorella, in cui uno dei due, di solito quello più grande, guarda l'altro e dice: ah, ma non lo sai? Tu sei stato adottato. Cioè, più o meno c'è sempre tra i fratelli. Questa è una sorta di perversione doppia. Non solo non sei stata adottata o altro, ma c'è una bambola che ha una storia terribile, e quella bambola sei tu. Sì, sì, è diabolica. Diabolica, veramente. Ma sì, era stato un tormentone. Quando tu sei cresciuta, quando ne hai parlato con i genitori, cioè come dire, quando si è aperta tutta la questione, qual è stata l'opinione di tua sorella, dei tuoi, ma anche solo degli amici? Ma allora, in realtà c'è stato un vero incidente, nel senso che io raccontavo questa storia a mia sorella, che piangeva, e poi dopo magari lo raccontava un po' alla mamma e il papà, però diciamo che loro la tranquillizzavano e insomma si riusciva a ristabilire l'ordine. Poi a un suo compleanno, mi sembra, qualche amico deve averle regalato un libro di Bianca Pizzorno che si chiama Polissena del Porcello, ed è proprio la storia di una bambina che pensa di essere adottata e che quindi scappa per andare alla ricerca dei suoi genitori, adesso mi sembra qualcosa del genere. Okay. Quindi lei ha fatto 2 più 2, ha detto: no, mi regalano pure questo libro, quindi è vero. E quindi lì la storia di Cassonetta dopo era bandita, cioè i miei mi avevano detto: non ti ci provare più, perché qui la stai veramente traumatizzando. E poi vabbè, adesso ne ridiamo, per fortuna appunto la storia è andata a finire bene, c'è stato il lieto fine, e quindi ridiamo di queste cose, ecco. È veramente incredibile come tua sorella sia diventata una persona, da come la racconti, che sta bene, che diciamo che non ha avuto traumi, perché sì. È vero che tra fratelli, io vedo anche i miei nipoti che hanno uno 4 e l'altro 5-6 anni, insomma si massacrano l'un l'altro, è normale più o meno. Però, cioè, tu le sfilavi i quaderni dallo zaino per farle prendere le note, cioè eri veramente sì, una guarda, cara, veramente, che vergogna, hai voce, sì. Hai una voce così carina, gentile, garbata. Ah, ma guarda, cioè, quello che ti fa la gelosia è proprio questo, che non ragioni, non... cioè, io proprio, cioè, guarda, veramente, infatti... colgo questa occasione per fare un mea culpa e per linciarmi davanti a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Lo sa chiaramente che hai raccontato questa storia e starà ascoltando. No, no, lo scoprirà e lo scoprirà, glielo dirò perché mi ha detto Anita la data. Sì, sì, sì, ci tengo a dirle, insomma, a dirglielo ufficialmente anche che siamo tutti con lei. Claudia si chiama, giusto? Esatto, siamo esatto. Siamo tutti con Claudia e davvero... A me piacerebbe incontrarla per vedere come ne è uscita. Ho apprezzato tantissimo, Giulia, anche quando tu dici, fai un salto in avanti quasi educativo e dici, forse l'ho resa più forte e pronta ad affrontare gli schiaffi della vita. Insomma, provi a farti chissà, spalle, no, effettivamente. Chissà. No, un pochino lei? Cerco cosa di... Lei fa l'insegnante, l'insegnante di inglese. Io ci penso adesso, sai, essendo diventata mamma, mi dico, ma se facessi il secondo? Però dico, mamma mia, ma se i miei geni, la mia perfidia, la mia gelosia sono passati al mio primogenito, auguri. Cioè. Senti Giulia, sei veramente molto molto simpatica. Ti lascio tornare da tuo figlio che sta dormendo, quindi magari fai altro anche in realtà, immagino. Approfitto, esatto. Ne salutiamo, noi salutiamo tantissimo Claudia e anche tuo fratello, visto che è un po', diciamo, il convitato di pietra, che si chiama Carlo. Sì, esatto, a lui è andata bene, esatto, al gemello, esatto, è andata bene. Sì. Giulia, grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Grazie per questo a te, tempo strano, crepi. Per tuo figlio. Grazie davvero, a presto. Grazie, ciao. It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. A brave, brave girl to try. It took one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Don't be surprised. If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, don't take it personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Si chiama Una nuova idea di te. O forse una nuova idea di me potrebbe chiamarsi anche, soprattutto grazie alla storia che ci ha raccontato Giulia, che è una buona ammissione di colpa, devo dire. È una linea di confine quella che si varca tra l'essere il fratello buono e l'essere il fratello cattivo, che è davvero facile da varcare, ma rischia di essere pericolosa per sé e per il fratello. Questa ragazza davvero sembra una miracolata, parlo della sorella, perché con quello che l'ha fatto Giulia, esserne uscita sana e incolume è davvero un piccolo miracolo. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra è una notizia che non è mai stata né confermata né smentita, ma quando alla DreamWorks hanno iniziato a immaginare l'aspetto da dare a Shrek, l'orco del film campione di incassi del 2001, hanno con ogni probabilità pensato ad un campione di wrestling di inizio Novecento che si chiamava Maurice Tillet. Ma quello che forse non potevano immaginare è che la somiglianza non era soltanto fisica. Proprio come Shrek, anche Tillet era una sorta di mostro gentile, tanto educato nelle maniere quanto spaventoso nell'aspetto. In questa puntata dal titolo Una nuova idea di te, la seconda storia di oggi è proprio quella di Maurice Thillet, l'angelo francese. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Maurice Thillet era un bambino dai lineamenti delicati, talmente delicati da essere soprannominato Angelo. Fu soltanto quando ebbe 17 anni che iniziò a mostrare i primi sintomi di quella malattia che avrebbe trasformato il suo corpo per sempre. Maurice nacque negli Urali russi nel 1903 da genitori francesi. Il padre era un ingegnere ferroviario che lavorava alla costruzione della Transiberiana, mentre la madre insegnava francese in una scuola di Mosca. Rimase presto orfano di padre e quando scoppiò la rivoluzione russa, nel 17, lui e la madre tornarono in Francia, a Reims. Durante lo sviluppo al ragazzo cominciarono a crescere le ossa di una mano in maniera sproporzionata e nei mesi successivi anche quelle dei piedi e della faccia. La diagnosi non lasciò scampo. Acromegalia, indotta da un tumore benigno all'ipofisi, ed il progredire della malattia portò conseguenze soprattutto sui lineamenti del volto, sfigurando i suoi tratti angelici. Maurice comunque decise di non nascondersi al mondo. Studiò a Parigi, si laureò poi in giurisprudenza all'Università di Tolosa, ma abbandonò il sogno di praticare l'avvocatura proprio a causa del suo aspetto fisico. Si arruolò quindi nella Marina francese e ci rimase per 5 anni. Nel frattempo era riuscito a distinguersi anche come giocatore di rugby, senza tralasciare lo studio delle lingue, tanto che ne parlava 14. Nel 1937 avvenne l'incontro decisivo per il suo futuro con un wrestler professionista, Carl Poiello si chiamava, che lo convinse a dedicarsi a quello sport. L'angelo francese, come venne soprannominato, divenne uno dei protagonisti della lotta tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40, mentre il suo aspetto fisico dava modo ai giornalisti di sbizzarrirsi in considerazioni di carattere non solo sportivo. Nel 1940, commentando una sua vittoria sul St. Louis Post-Dispatch, si poteva leggere così: la sua grande e orribile testa spaventò le donne intorno al ring e probabilmente allarmerebbe anche Boris Karloff. Da altri cronisti spesso veniva presentato come l'uomo più brutto del mondo oppure una mostruosità umana. Eppure il fisico di Thillet lo fece diventare uno degli uomini più riconoscibili del wrestling professionistico, oltre che un campione di livello mondiale. Allo scoppio della seconda guerra si trasferì negli Stati Uniti, dove divenne una stella del ring. In pochi mesi diventò uno dei wrestler di maggiore successo nel Massachusetts ed ebbe diversi imitatori. I fan del wrestling erano elettrizzati dalla sua figura così come dalla sua tecnica potente, anche perché il suo personaggio sembrava collegare due mondi che finora erano rimasti distanti, quello dello sport e quello dei fenomeni da baraccone, i freak ammirati nei side show itineranti per mezzo mondo. Nel 1940, Thillet venne esaminato da un antropologo mentre le macchine fotografiche di Life, la rivista, seguivano l'incontro. L'etnologo annotò le misure della mandibola, della testa, dei piedi e delle mani gigantesche e concluse che Maurice potesse rappresentare una regressione all'uomo di Neanderthal. Per quanto ai nostri occhi oggi possa sembrare una diagnosi assurda, infamante, per un atleta che combatteva quotidianamente gli avversari sul ring e per la sua malattia, oltre ai pregiudizi, il servizio fotografico gli regalò un'immensa notorietà, tanto che Thillet cominciò a sfruttare a suo favore il personaggio dell'uomo preistorico. Sulla scia della sua fama cominciarono a spuntare come funghi gli imitatori, tutti dall'aspetto di cavernicoli e tutti con il suo stesso nome d'arte: l'angelo russo, l'angelo canadese, l'angelo irlandese, il polacco, il ceco e poi l'angelo d'oro, l'angelo nero e perfino una Lady Angel. Thank you. Maurice Thier restò imbattuto per 19 mesi e campione del mondo dei pesi massimi dal maggio del 1940 al maggio del 1942. Lontano dai riflettori era schivo e riservato, ma conoscendolo meglio si dimostrava brillante e curioso, un accanito lettore poliglotta. Nella seconda metà degli anni 40 ebbe un calo notevole e perse diversi incontri, diventando molto meno richiesto. Nel 53 combatté a Singapore il suo ultimo match. Il suo fisico era ormai allo stremo, come racconta l'amico francese che viaggiava sempre con lui. La sua testa era diventata così grande che non riuscivi a tenergli il braccio intorno. Era così debole in quel momento che mi spiegò cosa fare nel caso fosse caduto. Thier soffriva di problemi cardiaci dovuti alla malattia e morì nel settembre del 54, appena 13 ore dopo il suo caro amico di sempre, Carl Poiello. Secondo un altro lottatore che li conosceva bene, il mostruoso Thier morì di crepacuore. Thier era consapevole dei suoi problemi di salute e sentiva la fine sopraggiungere. Per questo accettò nel 53 che uno scrittore divenuto suo amico riuscisse ad eseguire dei calchi in gesso e a scolpire alcuni busti a grandezza naturale, uno dei quali è esposto al Museo Internazionale di Scienza Chirurgica di Chicago. Oggi si ricorda Thier specialmente per la vaga somiglianza con l'orco gentile Shrek, una somiglianza non solo fisica. Maurice è stato un uomo gentile, intelligente e raffinato, che si disvelava ben oltre l'apparenza fisica e che è riuscito con determinazione a trasformare un destino crudele nella migliore delle opportunità. Have you ever seen a one trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-armed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-armed man, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. Then you've seen me. Less than I had before. And you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Davvero, se riuscite, se vi capita, andate magari sui nostri social, su Linea d'Ombra, su Facebook o su Twitter, e cercate un'immagine di Maurice Thier, scritto Maurice Tillet con la T finale e la doppia L, perché se avete visto Shrek non potete non riconoscere la somiglianza incredibile, ma non solo nei tratti, financo nel sorriso gentile, garbato. Sì, le orecchie sono diverse perché Shrek aveva due specie di cornetti al posto delle orecchie, però il viso e il sorriso di Maurice Thier sono davvero davvero belli, piacevoli da guardare. Insomma, andate a vedervelo se avete voglia. Noi continuiamo a raccontare, prima però mandiamo un pochettino di Strade in diretta e poi torniamo con i vostri diari dalla quarantena. Continuate a mandarcene tantissimi, ne siamo veramente veramente grati. linee d'ombra@radio24.it se volete mandarci come questo periodo di emergenza ha modificato la vostra vita. Come sempre, quello che ci interessa è una piccola storia, un piccolo esempio, una piccola pagina di diario. Ora appunto le borse in diretta, perdonatemi, ora le strade in diretta, le borse le abbiamo già sentite, e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra.

Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale che in questo caso da settimana scorsa ad oggi, lo avrete capito, è una storia piuttosto densa e con un peso specifico molto molto importante. È la storia di un giovane uomo che sopravvive a un omicidio, sopravvive all'omicidio della madre e sopravvive al tentativo di omicidio nei suoi confronti. Il problema è che la persona che tenta l'omicidio e che uccide la madre è suo padre. Mauro lo ha incontrato, lui ce la sta raccontando passo passo la storia, anche se non ha voluto intervenire, quindi la voce che sentirete sarà la mia, mentre l'altra sarà quella di Mauro, che ha fatto le domande al nostro protagonista. In questa puntata ci racconta, o meglio, Mauro gli chiede com'era la vita fino a quel giorno assurdo, tragico e incredibile. Senti, torniamo prima di questo fatto gravissimo. Tu che memoria hai della tua famiglia? Che vacanze facevate? Andavamo parecchio in giro, tanto che qualche volta dicevo «ma voglio anche stare un po' a casa». Ogni fine settimana eravamo in giro. Si stava bene, non dico sfondati di soldi, però sì, benestanti. Cioè, si andava a fare il classico giretto domenicale nelle varie città d'arte. Abitavamo in una zona che nel raggio di 10 km in linea d'aria si raggiungano 7 province. Quindi raggiungere le città per noi era fare quei 60-70 km. Oppure andavamo al lago, specialmente in primavera. Niente avrebbe lasciato supporre quello che poi è accaduto. Perché di solito quando si parla di queste cose non si dà mai un prospetto chiaro. Quando senti parlare di queste cose pensi al mostro. E invece il mostro è sempre una persona. Non è facile da accettare, ma è più simile a te di quanto non immagini. I fatti restano sempre fatti, soprattutto i peggiori, ma il giudizio si fonda sempre su chiacchiere e su poca informazione. Ma è più normale di quello che uno possa pensare. È qualcosa di simile a quando ti domandi com'è possibile per qualcosa che non ti aspettavi. La gente che parla quando non è in mezzo alle situazioni, quella è la roba più odiosa che ci possa essere. Io cerco di trattenermi quando sento cose particolari. Ti faccio un esempio stupido. La settimana scorsa mi sono venuti a dire ma abbiamo visto tuo papà che era su una macchina nera, era in macchina con qualcuno. Vogliono essere allusivi, vorrebbero aggiungere qualcosa, ma me lo lasciano solo intendere senza dire che poi ero io con in macchina con lui. E lo stesso per quella che è la nostra storia, è successo coi giornali. Alcuni articoli mi hanno dato molto fastidio. Avevo letto delle cose che chi le ha scritte non so dire dove le avesse sentite. Hanno preso informazioni al bar e hanno scritto senza considerare che si sta parlando di persone. Di persone, non di figurine da appiccicare a proprio vantaggio. La verità è che la nostra per 15 anni è stata una famiglia serena. Sì, con qualche difficoltà, come chiunque. E io pensavo sempre ad uscire con gli amici. E anche quel giorno io dovevo andare a vedere il film I Pirati dei Caraibi. Tanto per dire, doveva essere il 2007. Sì, quel giorno. Era una mattina e mi ricordo che dovevo andare a vedere il film con i miei amici. Eravamo già d'accordo, ma è successo altro. Il film me lo sono visto poi a casa, in DVD. Dopo ho solo qualche flash, sia chiaro, ma niente, non mi ricordo quasi niente, ero in stato di shock. Cioè, ti svegli con dei colpi alla testa. Tutto sommato, devo dire una cosa, non ho sentito neanche dolore perché avevo il corpo che ha avuto una qualche reazione, l'adrenalina, poi non so i termini medici, non li conosco, però io dolore non ne ho tanto ricordo, ecco, neanche del taglio qua, sul collo. La chiudiamo così anche questa puntata e anche questa settimana di Linee d'Ombra. Vi ricordo che Linee d'Ombra è un programma che va in onda ciascuno da casa propria per rispettare le normative del nostro governo, quindi grazie mille a tutti quelli che compongono remotamente questo programma. Io da casa mia, Paolino Corlone da casa sua, Anita Panizza, Luca Micheli e Mauro Pescio. In realtà Anita e Paolo la radio la frequentano perché sono dei turni prestabiliti e quindi quanto meno possibile tutti vanno alla radio, noi invece riusciamo a fare tutto quanto da casa. Grazie a Mauro che raccoglie e racconta questa storia seriale. Voi godetevi questo fine settimana. Se avete voglia, la storia seriale domani sera alle 21:30 la potete sentire in un unico pacchetto da 5 storie tutte insieme, quindi da lunedì al venerdì in una mezz'oretta, ripeto 21:30, oppure andare sul podcast e trovate